Sim, Sala, Sala, amministratore delegato dell'Expo. Sim, Sala. Si chiama Sala. Sala, ah, già, Sala. Salutiamo Sala. Sì, sicuramente ci ha ascoltato. Certo. Ascoltando. Si sta ascoltando, quindi il mago Silvian. Sai perché non riesco a parlare? Perché in bocca ho una Love Heart, una rarissima caramellina tipo quelle che aveva Charlie Brown con il cuoricino. Su cui c'era scritto, schifo, perché sono salivoso. Tonde e hanno però il timbrino del cuore. Mettitela in bocca, dai. E dentro ci sono i messaggini d'amore, però questo l'ho succhiato troppo e non si capisce. Vedi cosa c'è scritto? C'è scritto non devi succhiare troppo. C'è scritto suck me. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Allora, ieri era vacanza. Sì. Oggi no. Oggi no. Però c'è il ponte. C'è per chi lo fa. E noi non lo facciamo. No. Quindi per noi non c'è. Esatto. Ma come fa una cosa a esistere per certi e per certi altri no? Vabbè, non è una grande novità. Dai, funziona così anche per Dio. Vabbè, ma insomma, dai. Allora, bentornati all'asilo Stoppani, tra tuoni, fulmini, tutto quanto. Drago. Oggi parliamo di delitto e castigo. Ma che palle! Ma non del romanzo, Kappa. Ah, meno male. Ma proprio di delitti e castighi. No? Che palle anche questo. Ma smettila di fare il bambino, dai. Ma siamo all'asilo, Drago. Ho capito, ma siamo due adulti finiti, cioè maturi, no? Finiti, speriamo di no, e tutto quanto. Quindi ci chiediamo con grande senso di responsabilità e le sopracciglia aggrottate alla Giretti: serve davvero mettere i bambini in castigo dopo che ne hanno combinato una delle loro? Ah, vexata questio. Cara Broccoli, caro Ferretti. Perché io dico questio, non questio. Questio, come difficile. Questio sarà, vabbè. Comunque bisognerebbe chiedere a quei magistrati che da anni stanno cercando di punire il bambino Silvio. Non sono mai riusciti a condannarlo, effettivamente. Quindi loro non sanno se la punizione serve o no. Loro vorrebbero dargliela, però poi lui colpa dei tempi della giustizia, Drago. Perché il tema del castigo è viziato dai processi che durano 15 anni, giusto, con 3 gradi di giudizio. Hai ragione. Che a volte si moltiplicano, diventano 3, 6, 9. 9, sì, anche 81, perché poi 9 al quadrato, non so com'è. Tito, dai, matematica, Drago, lo so che non capisci niente, ma insomma, allora, un bambino ne combina una adesso, Drago, e se tutto va male lo puniscono, non so, nel 2020. Lo so, è così. A quel punto il bambino sarà diventato un'altra persona, no? Sarà maturato, insomma. Ma di che cosa stiamo parlando? Del processo lungo. Appunto, e che fine ha fatto il processo breve? Guarda, 2 settimane fa Michele Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, diceva: ci deve essere un momento in cui la prescrizione si sterilizza, dopodiché si faccia di pari passo il processo breve, ma non quello che lo ammazza nella culla. Tutto chiaro? Direi di no. Pazienza, questo è quanto. E ora, bambini, ricreazione! Uè! Ragazzi, c'è un bambino nuovo, eh? Oh, ciao! Ciao! Oh, questo lo vediamo, è vero? Ciao! Ha dei capelli ricci! Dimmi come si chiama, perché lui è timido. Come ti chiami, bel bambino? Mi chiamo Joris. Joris? Ma che nome? È un nome olandese! No, è un nome tedesco, mi tedesco. Ha detto. Tedesco? Ah, vabbè, vabbè. Però non hai l'accento tedesco, com'è sta storia? No, perché io vengo dal meridione. Dal meridione? Accento lombardo, però. No, vabbè, allora, bambino Alberto, stringi amicizia col tuo nuovo amico meridionale. Ma senti, volevo fare una domanda. È sveglio, sì, come dimmi, te. Dimmi. Ma non ce ne sono le amichette? Vedi? Allora, vero, bambino Alberto. No, aspetta, le amichette, c'ha ragione lui. Sempre questo lui ha un. Non so se te l'ha detto, Joris. Il bambino Alberto ha un amico immaginario. No, che, poi che si chiama Gildo. No, immaginario, e poi lo prende in giro. No, perché finalmente hai un amico vero, Joris. Appunto, non è che mi vuoi sostituire con. Ma sei appena arrivato, come faccio a sostituirti? Ho capito. Allora, intanto le amichette. Ma sei nel meridione. È del meridione. Del meridione, cosa? Cioè che uno deve sapere la del meridione diverse. Dove? Cosa vuol dire? Meridione da dove vieni? È dal meridione, mia mamma mi ha detto di dire che vieni dal meridione. Fatto bene, così. Ma sai perché? Perché non vogliono specificare, che dici Calabria, dici no, la Calabria. Esatto, questi pregiudizi. Lui si è integrato all'accento lombardo. All'accento lombardo, già subito, immediatamente. Perché mi ha detto che vicino al meridione c'è l'Africa. Mia mamma. È vero, geograficamente, è vero, ma non c'è niente di male. Certo. C'è l'Africa, è una bellissima terra, un bellissimo cosa continente. Ma sei mai stato in Africa? No, ma infatti, ma deve insegnare quello ai bambini. Una volta vi chiamavano. No, perché è un'altra Africa, paese. Vi dicevano. È un altro paese, non perché c'è qualcosa di male. No, no, infatti. Infatti, qui siamo in Lombardia, siamo vicini alla Svizzera, che è un altro paese, quindi. Ecco, quindi, però è il settentrione. È bravo, è il settentrione. Perché alla fine per lui c'è il meridione e il settentrione. Vabbè, però diciamo, lui, torniamo a bomba, perché lui parlava di amichette. Sì, perché io ho lasciato giù all'asilo la mia amichetta e non so come sostituire. Giù all'asilo in meridione. In meridione, sì. E com'era l'asilo in meridione? L'asilo era bello, eravamo i 120. Tutti in una classe? In una classe. Vedi così. Una classe sola. Ecco. Il meridione è... meridionali sono precoci poi, ma quindi ma che cosa vuol dire? Un sacco di amichette avevo. Vedi? Sì. Avevo un sacco di amichette. Ma Alberto, sì, ma svegliati, però, cioè. Sì, però vabbè, le amichette. Ma qui non ce lo permettono. Deve arrivare Ioris dal meridione a dirti delle amichette. No, più che altro che ho visto la classe, siamo in 10, sono pochi. Ma siete 10 perché c'è, siccome ci sono i pidocchi, sono rimasti praticamente tutti a casa. Decimati. Perché sì, perché dunque, voi quanti siete in classe? Da noi venivano lo no, stesso. No, 120, ho capito, ma invece Alberto, noi? Voi quanti? Sì. 32, cavolo, vedi, quindi 22. 22 a casa coi pidocchi, hai capito? Ho capito, ma da noi venivano lo stesso, anche con i pidocchi e con... Con i tagli. Sì. Quando cadevano dalla bici, Ai tagli. Il giorno dopo venivano con le fasce, ma venivano lo stesso. Perché i genitori devono lavorare. Ah, senti, però tu hai veramente un accento lombardo, quindi non è che sei venuto dal meridione da poco. Ieri, poche. No, diciamo che io sono nato in meridione, però mi hanno portato a una scuola in meridione con dentro tutti i bambini settentrionale. Ma come? Il meridione. Non lo so, mi hanno detto che pagavano per mandarvi lì mia mamma. Ah, una cosa privata. Un collegio era. No, si chiamava, aveva un nome, asilo, non mi ricordo. Ecco. La Piurno era? L'Ombrico. L'Ombrico. All'asilo, l'ombrico. L'ombrico si chiamava. L'ombrico. L apostrofo? Non mi ricordo. So che era disegnato tutto di viola. Era disegnato di vedi quante cose sa. Era finalmente vabbè, un'intervista. Ma ha vissuto in due paesi, è un emigrante, tu sei un emigrante, no? Ma sono meridionale. Quindi sei un emigrante. Dove? Qui. Qui, sì. Quindi i tuoi genitori saranno comunisti. No, sono meridionale. Del meridionale, ma comunisti, sono comunista, no, non sono comunista, sono meridionale e non dire di che sei del settentrionale, ma comunista o, cioè meridionale, ok, meridionale, io sono un meridionale comunista, oppure sono un meridionale monarchico, quindi monarchico il re, tu sono per il re, sono per la monarchia, no, invece sono per Pier Daniele, no, è Pier Daniele, la polena canta in sponca e nessuno se ne morto. Ma no, ce li tutti così veramente. Che bella, è una nuova amicizia. Sì, la fratellanza tra i popoli. Finalmente un amico vero, Bravo Ioris, meridionale, speriamo che vada tutto bene. No, vedi che ha funzionato pagare l'agenzia che ci trovava l'amico. Vanno solo un ombrogno. E invece ci aiuta. La tazzulella e il caffè. Che mai nessuno se lo fa. Questo è un dialetto incomprensibile. Ci terranno pazzo, sanno tutto quanto. I so pazzo. Che bello, I so pazzo. No, fai proprio come siete voi. I so pazzo. E fai le corna. Così. Sì, a tutti i bambini cattivi. I so pazzo. Si sento sta nervatura, metta tutto in faccia pure. I so pazzo. Allora, vieni che andiamo, ti faccio conoscere Gildo. Sì, mi pare che te questa canzone. I so pazzo. Si sento sta nervatura, metto tutto in faccia amore. I so pazzo. Un ciscassato. E perché qui se dici la parolaccia poi. No. Dopo dici sei meridionale. Si paga gli euro. E dopo dici sei meridionale. Sì, sei meridionale, però. No. Tu non ti devi offendere, dico sei meridionale. Se esiste, sei meridionale. Se le dicono, vanno dette. Se esistono, vanno usate. Stop. morto. Ma che disastro, che patto colossale, i regali chi li porterà? Questo Natale è da dimenticare, farvi auguri, ma che senso ha? Yeah! È venerdì, e quindi la discoteca. Però questa è musica da chill out, quella delle 6 del mattino. Vabbè, che comunque, sei già fatto. Io sono avanti, extra, per me il weekend è cominciato giovedì, drago. Salutiamo e ringraziamo Carmelo Lauricella. Laura Faggina. E poi vai avanti. Tommaso Varvello, Alberto vai. Caserini, non so, Guido Bertolotti, così tanto per. Ricordatevi di prenotare la vostra presenza alla recita di Natale di Chiedo Asilo, a Chiedo Asilo @radio24.it, mettendo come oggetto recita di Natale, perché Babbo Natale esiste. È venerdì. Dai. Oh yeah.